principles of stare decisis look at a number of factors, settled expectations, one of them, as you mentioned. John Roberts, il Chief Justice, un repubblicano doc, a sorpresa si è schierato con la maggioranza. Nessuno se lo sarebbe aspettato, tantomeno i repubblicani, che sono rimasti frastornati davanti alla notizia. Roberts ha detto e ha scritto nell'opinione: il governo federale non ha il potere di imporre una transazione commerciale e quindi di imporre l'acquisto di una polizza assicurativa, ma ha invece il potere di imporre una tassa a coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria. L'individual mandate, che è l'aspetto centrale della riforma di Obama, è l'aspetto centrale in discussione in corte, è quindi costituzionale, dice Roberts, perché può essere ragionevolmente letto come una tassa. Ecco, se fosse stata una penalità, se fosse stato un obbligo commerciale all'acquisto, allora forse c'erano dubbi sulla costituzionalità. Ma siccome il Congresso ha il diritto di tassare i cittadini e siccome in fondo qui si tratta di una tassa, ecco che a sorpresa, ripeto, la costituzionalità è stata provata.